versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, non si va dritti senza me, sono sempre sorprese, non è partito il jingle. Allora, in questo martedì 23 di dicembre, sì, c'è un po' di arietta già natalizia, però insomma le cronache politiche non sembrano tanto natalizie a dire la verità. Allora, per decidere se telefonate all'800 24 00 24, vi ricordo anche 3492 38 6666 per gli sms, vi dico subito il tema di cui parliamo oggi. Traiamo spunto da un articolo che mi ha molto colpito stamattina di un collega verso il quale ho molta ammirazione, perché sono quei giornalisti che continuano, come si dice in gergo tecnico, a mangiare molta polvere, si dice così, nel senso che è il giornalismo che insegue le notizie, insegue la gente che non vuole molto parlare e quindi insomma batte la strada come si faceva nei vecchi tempi. Oggi con internet è un po' tutto diverso, però ci sono colleghi che veramente fanno onore a questa qualifica, che sta abbastanza in basso nella graduatoria della fiducia popolare, ed è sicuramente colpa nostra, dei media e dei giornalisti. E invece ci sono colleghi che la mattina mi fanno balzare sulla sedia per gli articoli che riescono a scrivere, appunto inseguendo nelle vicende su cui sembra già di poter commentare perché si sa tutto, sempre nuovi particolari. E parliamo oggi del PD a Roma, ma insomma, se volete, dei partiti, perché il suo articolo è sul PD a Roma. Oggi le cronache dicono che il sindaco Marino fa un altro passo nel cambiare la sua giunta, annuncia nuove iniziative anticorruzione, però sapete che a Roma il PD è stato commissariato. Allora la domanda che vi faccio per invitarvi a telefonare è: ma nella vostra opinione o nella vostra esperienza, se siete militanti di partito, quadri di partito, quello che c'è scritto in questo articolo relativo al PD di Roma, secondo voi è così un'eccezione? Oppure la realtà che vedete da fuori, se non vi impegnate, pensate che sia sbagliato impegnarvi in politica? Però mi interesserebbe soprattutto se chiamasse qualcuno che invece è impegnato nei partiti. Nella vostra percezione, stiamo parlando di degenerazioni, quelle descritte nell'articolo di cui adesso vi presenterò l'autore, e che a me, che, ripeto, ha fatto molto grattare la testa per la durezza del quadro che esce fuori? Ecco, allora chiamateci all'800 24 00 24, sia che voi siate molto sfiduciati, sia che invece riteniate che vale la pena, perché solo impegnandosi dal di dentro nei partiti si può tentare di cambiarli, malgrado quello che le cronache da tanti anni ci fanno vedere. Però telefonateci per dare un'idea sulla vostra esperienza personale di come li vedete i partiti in questa mala Italia in cui continuiamo, naturalmente, a doverci impegnare e a sperare ogni giorno di trovare buone ragioni per non sfiduciarci. Allora, questo articolo ha un titolo sulla stampa di Torino che è: Roma, il peggior PD d'Italia, riparte dai fischi in periferia. Vi leggo anche il sommario: troppi dirigenti da salotto, mentre Zingaretti è il presidente della regione Lazio del PD, prepara la fronda al premier. Ecco, e io prima di presentarvi l'autore e di far parlare lui, vi leggo la frase che più di tutte mi ha fatto sobbalzare, perché l'autore riesce a far parlare un dirigente del PD di Roma in cambio dell'anonimato, però lo virgoletta, quindi il dirigente esiste, non è una finzione giornalistica, e questo dirigente dice le testuali parole che vi leggo: a Roma esistono 150 circoli del PD. Bene, continua il dirigente del PD anonimo romano. Bene, di questi 150 circoli del PD, un terzo sono veri, hanno iscritti veri, è una dinamica reale, dibattito, insomma sono contendibili. Un altro terzo, altri 50 circoli dei 150 del PD a Roma, sono totalmente falsi, non hanno attività, spesso neanche la sede. E il restante terzo, altri 50, sono circoli proprietari, cioè interamente pagati da un consigliere. Questi circoli magari esistono, fanno attività, ma non sono in alcun modo contendibili. Ecco, queste le dichiarazioni di un dirigente del PD all'autore di questo articolo. Ripeto, io ne sono un lettore e ammiratore da tempo. Si chiama Jacopo Jacoboni, grazie di essere con noi oggi pomeriggio, Jacopo. Ciao, buonasera, ciao. Allora, posso chiederti se le parole del dirigente PD ti hanno stupito, quanto è stato faticoso ottenerle, è il vero quadro della realtà secondo te, oppure persino sui 50 che lui dice avere c'è da dubitare, insomma, nel dirtelo questo dirigente del PD che aria aveva? Ma diciamo faticoso, devo dirti la verità, ti sto parlando di un dirigente che conosco da tantissimi anni, una persona di cui ho stima e mi fido al 100% anche della sua onestà e del quadro che mi fa. Devo dire che è un quadro che più o meno, i numeri possono essere che i circoli sono 160 o sono 148, può variare leggerissimamente la proporzione, ma sono cose che più o meno sanno i, diciamo, almeno i dirigenti di un certo livello del Partito Romano. E naturalmente per Orfini, il commissario di Roma, sarà più difficile dimostrare poi, quando dovrà, come dice lui, bonificare anche con violenza, me l'ha detto ieri, eravamo alla Camera, questa situazione, lui dovrà, diciamo, dimostrarlo in maniera certificata, diciamo così. Però che la situazione sia nota, io penso che sia molto nota. Che lo vogliono dire, è molto difficile naturalmente avere i questi numeri, questi dati, perché naturalmente significa appunto dire che è una cosa conosciuta, e soprattutto nessuno te la vuole quantificare, no? Perché fino a che uno dice, parla di tesseramento gonfiato, che ci sono, cioè non si capisce bene di che cosa stiamo parlando, no? Invece questo dirigente mi racconta quella che secondo me è l'esatta fotografia. Quindi il problema, come dire, sarà per Orfini da un lato azzerare tutto questo, e io credo sinceramente, Oscar, che lui sia intenzionato a farlo. Queste sono state le sue dichiarazioni. Sì. Io credo che sia intenzionato a farlo e che lo farà, nel senso, ha anche affidato un compito, diciamo così, ricognitivo a Fabrizio Barca, alta persona molto onesta, che sicuramente nel giro di 3-4 mesi lo farà. Però il problema è anche che bisogna poi vedere a quel punto il modello di PD che vogliono, perché per non essere, diciamo, solo demagogici, no? Una delle questioni molto gravi è che se si restringe e si controlla molto di più e molto più seriamente il tesseramento, e poi però nello stesso tempo si dice vogliamo il partito aperto, il partito si dovrebbe aprire più alla società vera, non essere chiuso tra le clientele, ecco, queste due esigenze cozzano un po'. Quindi il problema successivo ad aver resettato i circoli sarà, da una parte, fare un partito aperto, ma proprio per farlo aperto devi, come requisito, avere dei tesserati veri, cioè partire dal fatto che, insomma, quelle cose un po' all'antica, no? Che adesso col liquido Renzi, tutte queste cose qui, sembrano quasi delle bestemmie, perché poi una delle cose abbastanza interessanti di questo meccanismo è che, onestamente, questa piuttosto vero, i principali dirigenti politici del PD, diciamo quelli che hanno responsabilità, il presidente della regione o ancora di più il sindaco, sono persone che non si stanno occupando da anni del PD romano, cioè hanno teorizzato proprio che ci si occupa dell'amministrazione, e così del PD, diciamo, il PD a Roma e nel Lazio viene gestito anche con queste cose. È un po' come se, Oscar, tu sei esperto di economia, la mano sinistra fa una cosa e la mano destra ne fa un'altra, ma non vogliono sapere l'una con l'altra, no? Allora io ti faccio una domanda da osservatore: perché sui 50, cioè se un terzo dei circoli del PD sono falsi, completamente falsi, ok, quelli bisogna un'azione di trasparenza, ma insomma quelli vanno chiusi, cioè sì, sono sì, completamente io credo che Orfini li chiuderà. Del resto, una collega, Flavia Amabile, proprio 2 giorni fa ha dimostrato come ci si potesse iscrivere anche con una falsa identità e senza nessun controllo. Il problema, secondo me, è anche rappresentato da quell'altro terzo di circoli che sono, come dice il dirigente di Cultura Riporti le parole, proprietà di un altro dirigente o consigliere o amministratore del PD, cioè sezione di cui lui paga tutto il conto, dall'affitto alle bollette alle spese per farlo funzionare eccetera eccetera, e che sono a quel punto dei circoli che, ovviamente, se si tratta delle primarie danno tutti i voti a un solo candidato, se si tratta di votare corrono solo per un candidato, se ci saranno le preferenze le daranno solo a un candidato e così via. Qui la domanda diventa più scivolosa. Perché cosa bisogna immaginare? Che questa concezione, tra virgolette, proprietaria dei circoli di un partito, dell'articolazione periferica di un partito, bisogna comunque rispettarla, perché come sappiamo viviamo in un paese in cui non c'è mai stata la legge attuativa della democrazia interna di partito, che pure sarebbe costituzionale fare. Partiti e sindacati si sono sottratti a queste leggi che in teoria sono previste in Costituzione, e quindi i partiti possono al loro interno fare quello che vogliono. Allora, questi 50 circoli proprietari, che secondo me sono la fotografia di vasta parte di come sono articolati i partiti perifericamente nel nostro paese, sono un problema anch'essi per la democrazia? Io rispondo sì, ma tu come la vedi? Ma io penso che siano, ecco, appunto, hai colto benissimo il problema, nel senso che quelli falsi è molto più facile, li azzeri, lì c'è un parametro oggettivo, nel senso che ci sono alcuni che non hanno le sedi, me ne ha anche citati alcuni, adesso, ecco, quelli li chiudi. Per i circoli proprietari il problema è un po' diverso, perché lì, diciamo, a volte, nei casi limite, anche in buona fede, di solito un consigliere regionale paga tutte le tessere, mettiamo che la dimensione media sia 100 iscritti, lui paga tutto il tesseramento di queste 100 persone. Lui paga, tira fuori, facciamo la cifra, 2000 euro, perché sono 20. Li paga lui, esatto. Questo che cosa significa? Che da una parte questi non tirano fuori una lira, e quindi chi ha i soldi, chi ha, diciamo, una forza economica, in questo caso il consigliere regionale eletto, magari gli fa fare anche un'attività, un dibattito, possono anche dividersi, ma al momento del voto, se tu vai a vedere, guarda, questo è un lavoro che io non ho fatto parzialmente, nel senso che, per esempio, per le elezioni della segreteria del PD, in cui si sfidavano Fabio Merilli, che è un reatino di Poggio Moiano, contro, tenuto da tutti i big del partito, ex presidente locale della provincia, ex margheritico, ex molto appoggiato in alto, ma che ha faticato tantissimo a farsi eleggere, ci sono state due tentative. Lui a Roma ha perso la buona corsia, era sotto, ha vinto in tutto il resto, diciamo, delle province laziali, anche lì fare un esercizio divertente, ma a questo punto sarebbe quasi stucchevole una volta spiegato questo meccanismo. Ci sono dei circoli in cui, per esempio, la vittoria è stata 0. Sì. Ora, la domanda che noi ci facciamo è: com'è possibile che in un circolo non ci sia una persona che vota diversamente? Ecco, quelli sono i classici circoli proprietari. Lo so, però la mia opinione è che a quel punto chi ha più soldi, perché li fa dalla politica, visto che consiglio di giornale, Orsini ieri accennava una soluzione che avrebbero in mente, che non vogliono più, se vogliono cambiare lo statuto del PD, intanto intervenire loro, far sì che non sia possibile più che un eletto finanzi integralmente un circolo, per esempio, ma l'eletto paga il partito e poi è comunque il partito che finanzia il circolo. Che è cosa diversa. Ma questo, per esempio, ora io rispondo subito ad alcuni ascoltatori, dicono: ma perché parlate solo del PD? Qui do la mia risposta personale, perché il PD è di quelli rimasti l'unico che sostiene ancora di avere una forma organizzativa, cioè quella di un partito che vuole rispettare delle regole, la democrazia interna, votare. Gli altri dichiarano oramai esplicitamente di non essere così. La differenza è che quindi il PD ci consente ancora di farle queste riflessioni, le altre forze politiche no, e che è peggio dal mio punto di vista, perché se dovessi raccontare la mia esperienza di come funzionano i circoli della ex PDL, poi Forza Italia, eccetera eccetera, lì siamo nella dimensione proprietaria quasi all'85-90%, proprietaria nel termine di cui stiamo parlando oggi, cioè eletti che pagano tutto e quelli fanno quello che dice lui, per essere chiari. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornare in diretta alle 16.50 parlando, traiamo spunto da questo articolo duro, forte, La Stampa di oggi, scritto dal collega Jacopo Iacoboni, con un dirigente del PD che racconta dei 150 circoli del PD a Roma, metà veri, un terzo veri, un terzo falsi, un terzo di proprietà di un amministratore che paga tutto. Sentiamo un po' dei vostri sms e poi telefonate, per esempio questo: quelli che vogliono comandare con le tessere però sono da sempre i peggiori, perché poi comandare con la tessera significa anche coprire la corruzione in nome della solidarietà interna a un leader o a una corrente interna di partito. Un altro, Enzo Latina: mi sembra di rivedere DCPC dopo gli scandali del 93, il problema è che loro la stanno vivendo 20 anni dopo, quando qualcuno si alzò nella camera e disse siamo tutti coinvolti, gli altri si girarono dall'altra parte, e invece la storia dimostra che non aveva tutti i torti. Enzo sta parlando di Bettino Craxi, naturalmente, anche se non ne fa il nome. Sentiamo qualche telefonata. Federica da Vicenza. Federica, prego. Ah, buonasera, buonasera. Non da Vicenza ma da Bassano del Grappa. Da Bassano del Grappa, mi scusi. È già una cosa diversa, sì, telefonare certo. Da un comune come Bassano rispetto a una città come Vicenza. Certamente. Perché devo dirle che io ho visto finanziamenti importanti per il PD sempre anche a livello di comuni, mentre devo dire che dall'altra parte, dalla parte dove sto io, che è quella opposta al PD, in tutti questi anni di campagne elettorali che abbiamo sostenuto e tutte le attività che abbiamo portato avanti, abbiamo dovuto sempre veramente mettere mano al portafoglio. Quindi l'ultima campagna che mi ha visto proprio come candidato sindaco rispetto a un altro candidato sindaco del PD, devo dirle che io ce l'ho fatta un po' da sola, mentre al PD sono arrivati fondi ingenti. Ma quando le dice fondi ingenti, sono arrivati perché si davano da fare del PD, da quelli nazionali, da quelli regionali, cosa vuol dire fondi ingenti? Secondo quello che mi è arrivato di notizia, loro veramente riescono a far arrivare fino ai comuni anche più piccoli. Ma Federica, però questo ha a che vedere anche con quello che dicevamo prima, lì è rimasta una forma storica di partito organizzato continuativa nella storia, poi naturalmente evolve, si modifica, io non la voglio difendere, dico che loro ce l'hanno e la difendono e dicono che quella è la forma partito, tutti gli altri sono movimenti in cui la raccolta fondi molto spesso funziona come dice lei, cioè dal basso per chi si è candidato, Federica. Questo ha degli aspetti positivi, naturalmente gli aspetti negativi sono che secondo me senza un controllo esterno su un minimo di democrazia e trasparenza dei fondi dei partiti, l'esperienza pluridecennale ci dice che succedono regolarmente le cose di cui poi si occupano le procure. Federica, io non sto parlando di lei, però io penso che quella legge che consentisse un'ispezione interna nei partiti serva, ecco, per me è una cosa che manca alla nostra democrazia. I partiti come i sindacati sono contrari, naturalmente poi ogni volta che le procure mietono vittime diciamo ma è colpa degli uomini, ci vogliono gli uomini onesti, sì, ho capito, però le regole contribuiscono a far crescere le occasioni di chi vuole a quel punto fondi non dichiarati, appalti, commesse eccetera eccetera. Massimo da Cagliari, sentiamo Massimo, come la pensa? Sì, buonasera Giannino, buonasera Iacoboni, io ho letto appunto l'articolo di Iacoboni, sì. Ne parlavo poche ore fa con un mio amico, che lui è un dirigente qui del PD a Cagliari, io sono un semplice attivista di area civatiana, diciamo così, no? E lui mi diceva in realtà che secondo lui il futuro è questo, ovvero persone di spicco, autorevoli, che comunque mobilitano i loro attivisti e poi si compete alle primarie. Io invece gli dicevo. Quindi, voglio dire, i circoli proprietari sarebbero una specie di imprenditore politico senza di cui i partiti non stanno in piedi. Sì, lui aveva questa visione di partito, secondo lui un po' all'americana, dove c'è la struttura snella, sono le personalità che mobilitano i simpatizzanti, che si mobilitano per le campagne. Quelli che negli Stati Uniti si chiamano Political Action Committees, che nel partito repubblicano, ma anche in quello democratico, sono molto forti, che funzionano più o meno come dice lei. Naturalmente sono molto più che in Italia, dove non è obbligatorio dirlo, però organizzato dichiarando trasparentemente anche quali interessi loro vestono e servono in politica. Questo è, a quel punto è necessario dichiararlo, però questa è la mia opinione. Altrimenti l'imprenditore politico che fa? Spende tutti i soldi che prende il consiglio regionale per pagare le tessere agli altri? Secondo me. Il mio timore è che quello che i partiti poi diventino una sorta di bilancia che pesa il potere dei capibastoni. Dei capibastoni o degli interessi che stanno dietro. A me purché lo si dichiari, però bisogna dichiararlo a quel punto, perché la finzione di una democrazia di partito con i capibastoni che pagano a me non piace troppo. Poi io non voglio convincere nessuno. Francesco da Bari, che pensa, Francesco? Salve, niente, io penso che è un costume ormai diffusissimo e che risale ai tempi della vecchia democrazia cristiana, dai cui da sempre pagavano e pagano, continuano a farlo, certo. Nonostante la democrazia interna, lo continua a fare anche il PD, perché io ci sono stato nel PD, ne sono uscito proprio per questo, perché continuano a pagare le teste e ci sono dei vecchietti che vanno in giro a chiedere nomi, cognomi, schede e a registrare le persone. Ma a parte questo, bisognerebbe considerare invece che si può fare qualcosa. Le dico come la penso, sì. Nel senso che pagando il finanziamento pubblico dei partiti, ogni cittadino italiano la politica o la fa o la subisce. Certo. Quindi dato che la subisce e la paga, dovrebbe essere iscritto automaticamente all'interno del partito ed essere tutti iscritti. Cioè la vera vergogna è pagare 15 euro una tessera. Cioè pagare la tessera, ho capito, del Francesco, però il meccanismo... con noi che paghiamo le tasse, Francesco, per... ho capito, aspetta, alta, noi siamo in un regime di transizione, dura altri 3 anni in cui sparisce il finanziamento del pubblico dei partiti, e quindi non ci dimentichiamo questo, quindi il suo meccanismo però fa pugni con la legge che nel frattempo pian piano diminuirà anno dopo anno la quota. Allora Jacopo, che pensi le telefonate dicono che insomma la prassi è abbastanza diffusa e alcuni dicono che l'imprenditore politico, cioè quello alla testa del circolo proprietario, forse il futuro dei partiti. Tu che dici? Jacopo? È caduta la linea di Jacopo, naturalmente. Allora, io personalmente, a dirvi la verità, ritengo invece che il meccanismo proprietario dei partiti, che è quello dei grandi movimenti fondati sulle persone, che in realtà sono stati la spina dorsale della Seconda Repubblica, non siano un grande problema in sé per sé. Lo sono se non si dichiara, però, fino all'ultimo euro le cifre che si prendono. Allora, da questo punto di vista, io penso che chi, anche sulla nuova legge, quella che sostituirà il finanziamento pubblico, eccepisce che questo meccanismo di trasparenza non è ancora sufficiente, abbia assolutamente ragione da questo punto di vista. Perché, in altre parole, diminuire il finanziamento pubblico e poi farlo cessare, se non c'è una regola precisa su questo, ci consegna alle lobby. Jacopo, sei tornato in linea, tu che pensi di queste osservazioni dei nostri ascoltatori? Ma io adesso mi sono perso le ultime perché mi era caduta la telefonata, però mi sembrava che ce n'era uno, non so, il signor Massimo, sì, no? Che dice, un ex militante del PD, che esatto, diceva queste cose le ho viste benissimo con i miei occhi e me ne sono andato per questo. No? La cosa interessante è che è proprio questo, cioè io credo che la sappiano moltissime, esatto, persone, però forse non reagiscono, non lottano e preferiscono andarsene piuttosto che cambiarla. Da Jacopo, una parte è questo, dall'altra poi ho l'impressione, sai cos'è, che un conto è saperla e un conto è prendersi la responsabilità, cioè, di dire esatto, guardate le cifre sono queste. Però io penso che alla fine bisogna farlo, siccome tu oggi hai fatto un buon servizio non solo ai tuoi elettori ma insomma anche alla democrazia, diciamo così. Continuate con Radio 24, grazie a Jacopo Boni, appuntamento con me domani.